Ringrazio Franco, soprattutto quest'ultima frase è stata veramente, veramente profonda, quindi riassume un po' il senso di quello che cerchiamo di fare. Ok, io sono Alessandro, sono il coordinatore del progetto, per chi non lo sapesse, e riassumendo brevemente un pochino la storia del progetto, fino a quando è arrivato in Italia, sapete che nasce in America nel 96 più o meno dalla venerabile Rubina Curtin, e che si espande in maniera davvero importante all'interno dell'America prima e in altri paesi dopo, fra i quali la Nuova Zelanda, il Messico, la Spagna. E grazie alla venerabile Tiziana, che presta servizio in America proprio direttamente con Rubina, il progetto arriva qua, all'Istituto Amazon K, che crede in questo progetto, investe in questo progetto, ed è il motivo per cui stasera siamo qua a presentarvelo. Perché è un progetto che è in espansione, è un progetto in crescita, è un progetto nuovo, è un progetto che ha delle potenzialità veramente importanti. Ed è un progetto che riassume, secondo me, in maniera importante quelli che sono gli insegnamenti del Dalai Lama, che in giro per il mondo parla continuamente dell'importanza di creare un'etica laica e che questa etica laica sia a servizio della responsabilità universale. E questo, secondo me, sono due concetti fondamentali che noi stiamo cercando davvero di portare avanti e di incarnare, dei quali stiamo davvero vedendo i frutti. Quindi prendere tutto ciò che dal buddismo è saggezza, è universalità, è tecnica attraverso le quali le persone possono davvero aumentare, potenziare le proprie qualità positive, metterle a servizio dell'altro e permettere all'altro di crescere all'interno di questo, soprattutto in condizioni di grande sofferenza, come possono essere quelle ad esempio del carcere. Ora, il progetto è un progetto FPMT e qui in Italia abbiamo la fortuna di assistere alla crescita di due grandi progetti, uno dei quali è Dare Protezione, che voi tutti conoscete, l'Hospice Tiziano Terzani, e l'altro è il nostro, Liberation Prison Project, che negli ultimi due anni ha avuto davvero una crescita importante. Adesso siamo presenti in 9 carceri, più o meno altri probabilmente si attiveranno, grazie alla forza e alla potenza dei volontari che hanno deciso di mettersi in gioco e di portare, di condividere quello che avevano imparato, quello che stanno imparando tuttora dai nostri preziosi maestri, di condividerlo, di metterlo in gioco e di portarlo affinché gli altri possano aiutarsi. Perché non c'è nulla al mondo di più difficile di aiutare, è una cosa difficilissima da fare, soprattutto se viene fatto nell'atteggiamento mentale. Può sembrare un tentativo di dominare l'altro, può sembrare un tentativo di fargli lavaggio del cervello, no? Possono nascere mille fraintendimenti. In realtà quello che noi facciamo, e che ne abbiamo parlato a lungo, è aiutare gli altri ad aiutarsi, che forse è qualcosa di ancora più bello, no? Dare all'altro lo strumento per poter camminare da solo, per poter riprendersi in mano quella che è la propria vita. Ed è interessante notare anche le reazioni delle persone di fronte a questo, perché mi è capitato una volta di dover parlare di fronte alla mia vecchia scuola, di fronte a 600 ragazzi, e non avevo la più pallida idea di cosa dire, fino a che la sera prima dell'evento a cena avevo un amico. E poi fortunatamente questa cosa si è ripetuta in altri momenti, quindi ho iniziato a ragionare su questa cosa. E parlando di quello che i miei volontari facevano in giro per le carceri, la reazione è stata di rabbia potente, no? Perché mi ha fatto pensare che in Italia, ma probabilmente anche in altri paesi, c'è ancora il rifiuto. Non si vuole parlare del carcere, non si vuole parlare dei detenuti. Si reagisce di pancia a un argomento che evidentemente è ancora un nervo scoperto, no? Soprattutto per certi tipi di reati. E mi ha fatto ragionare perché non c'era interesse per quello che facevamo, non c'era meditazione, cosa vuol dire, come la fate, com'è possibile che in un ambiente come il carcere proliferi. C'era solo il dire no, a me questa roba non mi interessa, e questa cosa io l'ho verificata anche in altri amici. Io non frequento amici buddisti o che abbiano probabilmente una certa motivazione religiosa, però è molto interessante perché mi ha fatto pensare a come fa molto più comodo tenere fuori, no? Pensare che il detenuto in qualche modo è qualcuno che viene da un paese lontano. E su questo si gioca moltissimo, lo sappiamo, perché fa molto comodo pensare che tutti i detenuti vengano da paesi lontani, e che è qualcuno che poi sparisce a un certo punto, no? Ora, noi sappiamo che grazie al cielo la pena di morte in Italia non c'è, e sappiamo che fra l'altro la detenzione in Italia poi non è qualcosa che di solito è molto molto molto lunga. Quindi anche persone con reati pesanti prima o poi tornano in società. Quindi la nostra grande occasione, la nostra davvero grande occasione, è il rapporto che noi possiamo instaurare con queste persone nel mentre. Cioè possiamo imparare a utilizzare il periodo di detenzione come una grande occasione per noi società di in qualche modo riprepararli a quello che sarà dopo il loro ingresso e per loro di poter riprendere in mano la loro vita. Noi, forse voi la conoscete, c'è una frase di Dostoevskij molto bella che dice che il livello di civiltà di un popolo si misura proprio dalla condizione delle sue carceri, no? E questo, lasciamo perdere il panorama italiano, però senza fare giudizi di sorta, anche perché davvero questo poi è un altro pregiudizio, perché poi la dottoressa De Ceglia vi racconterà, e noi abbiamo a che fare tutti i giorni con uomini e donne che credono nella detenzione, ma ci credono fermamente e fanno davvero del loro meglio per poter aiutare queste persone ad aiutarsi, torniamo sempre lì, no? E anche senza saperlo fanno anima, così come proviamo a farla noi. Quindi se è vero questo che dice Dostoevskij, allora noi possiamo riportarlo in qualcosa che ci sembra più vicino. E qualcuno, anzi molti a noi hanno insegnato che il livello della pratica si misura proprio nel rapporto col nemico. E allora proviamo a immaginare, no? Il nemico. Il nemico chi è? Il nemico è qualcuno che fa qualcosa che non ci piace e che quindi deve essere fermato. Poi il nemico è qualcuno che, se siamo fortunati, viene isolato, no? Viene messo lontano dalla società, viene impedito in qualche modo di tornare. Il nostro rapporto col nemico, con quello che noi riteniamo nemico, è la misura della nostra pratica. E non è possibile poter aiutare il nemico se prima in qualche modo non si è affrontato il nostro nemico interiore. Quindi in qualche modo la nostra paura per la detenzione, per il mondo del carcere, il nostro rifiuto, forse è l'identificazione di un rifiuto di ciò che dentro di noi non va, di ciò che dentro di noi non piace. E il lavoro che un progetto come questo porta a fare è il lavoro che prima di tutto ciascuno di noi fa con se stesso, perché è impossibile accostarsi a un mondo come questo se non si è accoglienti, se davvero non si è tolto il giudizio, se non c'è più l'etichetta dentro fuori, detenuto, persona libera. A me una volta il mio maestro, scherzando, mi ha detto che la differenza fra noi fuori e detenuti dentro è che a noi non ci hanno ancora beccato. Però di fatto è così, è l'etichetta che noi mettiamo sulle cose, no? E vi voglio raccontare questa cosa perché è stupenda. Chiunque di noi entri per la prima volta in un carcere ha un impatto davvero scioccante. E lunghi corridoi, chiavistelli che si aprono e si chiudono, guardie, detenuti, no? Un ambiente veramente, veramente importante. E quando poi tu finalmente arrivi nella sala dove i ragazzi ti aspettano, è uno shock in positivo, nel senso che tu probabilmente ti aspettavi di trovarti davanti il detenuto da film, no? Con tatuato, brutto, sporco, antipatico, e davanti dei ragazzi che non hanno scritto detenuto, non hanno più nemmeno le divise, non esiste più per fortuna, quindi ragazzi normali con una voglia di ascoltare infinita, che hanno fatto sicuramente qualcosa per essere lì, ma che vogliono fare qualcosa perché quando poi escono siano pronti a tornare nel nostro mondo. E questo è molto importante, perché un'altra cosa di cui parlavamo oggi poi nel raduno è che anche un'altra cosa che noi pensiamo, no? Il carcere brutto, quando poi escono, ah che gioia! E anche qui non è vero, perché il carcere diventa casa, poi Ignazio a un certo punto ci racconterà meglio, e quando poi loro escono, che cosa trovano? Che atteggiamento abbiamo poi noi di accoglimento? Nessuno, non c'è casa, non c'è lavoro, ci sono problemi, ci sono i vecchi amici che ti telefonano e anche se non vuoi. Quindi è molto importante cogliere questa grande occasione che noi abbiamo, e fra l'altro noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa che non è mai stato fatto qui in Italia, cioè portare degli insegnamenti vecchi come quelli del Buddha di 2500 anni, ma che sono così quotidiani, che sono così incredibilmente quotidiani, che hanno una potenza così incredibilmente nel qui e ora, attraverso un approccio laico, attraverso un approccio di servizio all'altro, attraverso la possibilità di aiutare l'altro a essere una persona migliore, senza cambiare ciò che è, ma potenziando davvero le capacità che nemmeno lui credeva di avere. E questa è veramente una cosa molto molto importante. Mi piace sempre citare una frase di un nostro Buddha, se vogliamo, di Francesco d'Assisi, quando lui dice È molto importante diventare nemici delle colpe, ma medici dei colpevoli. Ecco, noi facciamo esattamente l'opposto. Siamo nemici dei colpevoli e pretendiamo di curare la colpa. Questo ha dimostrato già i suoi effetti che non funziona. Mentre invece se tu investi sulla persona, credi nella persona e dai alla persona gli strumenti, ecco che, ok, paga la sua colpa, ma è pronto a iniziare una nuova vita. Non dimentichiamoci davvero che ognuno dentro di sé è un tesoro infinito, nonostante le cose peggiori che può aver fatto. Mi ricordo una volta Tiziano Terzani durante una conferenza disse che dentro di sé c'era tutto. C'era il padre, il figlio, l'amico, l'assassino, il pedofilo, qualsiasi cosa, tutto il contrario di tutto, perché dipende da quello che noi desideriamo in qualche modo coltivare o dalle condizioni che abbiamo trovato, no? Ci sono storie di persone che fanno reati perché nella loro famiglia è così, perché è normale, perché in qualche modo questa società glielo impone, perché a tutti ad esempio piace avere le cose belle ma nessuno se le può permettere. Cioè ci sono davvero mille sfaccettature che andrebbero analizzate e soprattutto una volta levato al giudizio ci sarebbe da rimboccarsi le maniche e da mettersi davvero a servizio dell'altro. E vi assicuro che ce n'è tanto bisogno, ma tanto bisogno, perché se il nostro mastro Eckhart fosse qui, davvero sarebbe molto impossibile riuscire a stare anche solo un minuto in meditazione, perché c'è tanta gente che in quel momento avrebbe bisogno dei frutti di quella meditazione. E quindi attraverso questo progetto, attraverso tutto ciò che è del buddismo impegnato, attraverso anche tantissime persone che come la dottoressa De Ceglia o come tantissimi altri si impegnano per rendere questo mondo un posticino migliore, ecco, davvero vi invito a guardarvi intorno, a capire come potete rendervi utili, a condividere, no? C'è una bellissima frase che dice happiness is true just when it's shared, la felicità è vera quando è condivisa. Ecco, condividere consapevolezza, condividere felicità, condividere anima, fare anima, come diceva Hillman. Questo secondo me è veramente importante. Nel nostro piccolo abbiamo cominciato ed è qualcosa davvero di piccolo, ma di cui credo possiamo andare fieri. Io sono davvero molto grato ai volontari che tutte le settimane, un giorno a settimana, qualcuno anche di più, occupa il proprio tempo in questo modo meraviglioso, perché poi Ignazio racconterà, ma vengono fuori persone così ed è una sfida che vale veramente la pena. E infatti, prima di salutarvi, vi racconto un'ultima storia che ho letto in un libro e che mi ha colpito tantissimo, perché molte volte mi sento chiedere se ne vale la pena, no? Ne vale la pena, tanti sforzi, tante cose, no? Tanto mobilitazione, persone che rinunciano magari a qualche ora di lavoro, persone che si impegnano, no? Perché poi il volontariato è così, metti dentro il piede, non esci più vivo perché ti prende in una maniera incredibile, no? Fai una cosa, ce ne sarebbero altre mille. E questa storia è molto bella perché racconta di una mareggiata enorme che fa spiaggiare un sacco di stelle marine. E c'è una persona che a un certo punto va su questa spiaggia e una alla volta cerca di rimetterle in acqua, no? Una alla volta. E quindi per una che ne salva altre 2000 muoiono, no? Però lui continua e arriva una persona e gli chiede se ne vale la pena. Ma ne vale la pena? E lui dice, guarda, per quelle poche che riesco a mettere in mare, ne vale la pena. Quindi questo è un po' l'atteggiamento che deve muovere. Se uno dice no, è troppo, non ci posso fare niente, allora non farà mai niente, non cambierà mai niente. Se uno invece sfrutta davvero le possibilità, e sono infinite, che ha dentro di sé e delle istituzioni che si stanno creando, come ad esempio il nostro progetto, come tanti altri, per mettersi in discussione, per condividere, le possibilità si aprono, le potenzialità vengono a galla, le persone giuste si incontrano. E questo è una cosa secondo me veramente veramente importante. Per finire la nostra situazione in questo momento, così facciamo un brevissimo riassunto. Il progetto Liberazione della Prigione in questo momento è impegnato in 9 carceri che idealmente abbracciano tutta la penisola, dalla Lombardia alla Sicilia. E questo è già veramente un ottimo risultato. Altri carceri piano piano si attiveranno, stiamo iniziando a ricevere delle richieste. E in alcuni carceri in cui siamo, stiamo implementando le sezioni. Perché davvero stiamo portando un metodo che non è nuovo, perché ha 2500 anni quantomeno, ma che è nuovo qui adesso, perché non si è mai provato. E una volta un direttore di carcere fra i denti mi disse, vedi, in qualche modo a noi va bene un po' tutto, perché non sappiamo come recuperarli, non sappiamo come aiutare questa gente. E in effetti, piano piano, portando queste tecniche di introspezione, le tecniche di meditazione, il dialogo, la riflessione sui temi personali e così via, ecco che qualcosa che apparentemente è nuovo risveglia nelle persone quello che in realtà hanno da sempre. Perché da sempre tutti noi siamo uguali nell'avere una mente e un cuore, non importa la tradizione, non importa la cultura, non importa la religione di appartenenza. Il Dalai Lama a Milano ha detto: se io inizio a pensare a me stesso come monaco, come buddista, come tibetano, subito ho creato delle etichette che ci differenziano gli uni dagli altri, no? Ma se io dico noi siamo tutti uguali perché abbiamo una mente e un cuore e perché tutti noi vogliamo essere felici e non vogliamo soffrire, ecco che le barriere si sono eliminate ed ecco che possiamo iniziare a cooperare. E questo, secondo me, in questo tempo, in quest'epoca, in questo tempo, in questo paese, ci sono veramente le radici per poter fare un lavoro di questo tipo. Quindi siamo davvero molto fortunati, siamo a servizio dell'FMT, siamo a servizio del buddismo impegnato, ma credo siamo a servizio un po' dell'umanità in generale, se ci mettiamo a fare qualcosa di questo tipo. Perché questa è la strada per rendere una società sempre più umana, sempre più a misura d'uomo. Sempre più sicura, se vogliamo, ma non quella sicurezza che viene dalla repressione, ma quella sicurezza che viene dal fidarsi l'uno dell'altro, dall'avere in comune degli obiettivi. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare in 9 carceri al momento, altre arriveranno, e chiedo davvero a tutti voi, a chi ha la volontà, a chi ha il desiderio di aiutare, trovate tutti i nostri riferimenti, per qualsiasi cosa c'è il mio numero, telefonatemi, scrivete, o davvero c'è bisogno di tutti, quindi è un progetto che appartiene a tutti noi, perché appartiene all'umanità e facciamo esattamente quello che Sua Santità ci insegna, ripeto, etica laica a servizio della responsabilità universale. E noi ci mettiamo davvero, davvero a servizio di questa idea. Quindi, ecco, questo un po' era in breve quello che io volevo dirvi. Quindi vi ringrazio per la vostra pazienza. Allora, io